probabilmente dal 2018, se passa un emendamento riguardante la privacy, non si potrà più iscriversi alle piattaforme online tipo Facebook, Twitter, Instagram, a meno che non si abbiano compiuti 16 anni oppure a meno che i genitori non ti diano l'approvazione. Cosa ne pensi in linea di massima di questa cosa? Ma allora, in generale possono, non so, ci possono essere dei contenuti che magari un bambino troppo piccolo, cioè, anche banalmente, magari dei virus, girano dei video. Io mi sono iscritto a 15. L'avevi chiesto a mamma e papà o hai fatto per conto tuo? No, l'avevo chiesto. E loro controllano quello che pubblichi, ti seguono online, si fanno gli affari tuoi? Ma allora, nel senso, non proprio controllano, cioè mia madre è mia amica, quindi non posso neanche pubblicare chissà che cosa perché sennò mi cuzza. A me diverte moltissimo questa sorta di dibattito giornalistico sul fatto che probabilmente il Parlamento europeo sarà chiamato a votare un emendamento che dirà una solenne cavolata che non cambierà assolutamente nulla. Dice le persone che hanno meno di 13 anni non potranno accedere ai social network salvo avere il permesso dei genitori. Allora, probabilmente chi pensa e immagina questo ha poca cognizione di quello che è il rapporto 16 anni, che rapporto che c'è fra un semi-adolescente oggi un genitore. Credo che il ricatto fisico e morale, la vessazione che subirebbe il genitore che non acconsente a dare il permesso all'inferiore di 16 anni a entrare nei social network sarebbe talmente insopportabile che bisognerebbe aprire una discussione sulla tutela dei genitori vessati dai figli. Oggi abbiamo parlato di episodi di suicidio di ragazzi a cui era stato sequestrato il cellulare o di omicidio dei genitori da parte di ragazzi che sentivano vilipesi e privati della più importante potente protesi per sopravvivere, che appunto il proprio smartphone. Beh, però oggi di questo parliamo perché vale la pena. Mi serve capire a che punto è arrivata l'asticella della possibile osmosi fra generazioni. Ora, oggi un ragazzo inferiore di 16 anni sta un ragazzo di 20 anni come 4-5 generazioni rispetto al tempo che noi ci ricordiamo. È cambiato totalmente tutto. Oggi un tredicenne è qualcosa che assomiglia a un'entità, a una monade a sé stante. Sì, vive in famiglia perché va nutrito, va sfamato, bisogna portarlo fino all'età adulta, però è qualcosa di totalmente diverso. Quindi i genitori come si comportano? Nella possibilità che esista quest'area chiusa, blindata, riservata, che si chiama social networking, in cui i figli si muovono liberamente e nel quale il genitore giustamente non ha diritto di accedere. È cambiato il tempo, è cambiata la cognizione dello spazio, è cambiata la cognizione dei rapporti tra generazioni. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Terza media. In terza media. E l'avevi detto ai tuoi genitori o hai fatto tutto tu? Sì, sì, no, lo sapevano. Quindi avevi il loro consenso. Sì. E ti chiedono magari di vedere quello che pubblichi, quello che, scrivo. Sì, però magari mi vergogno, quindi non lo faccio vedere, sì. Stessa cosa vale per WhatsApp, che è un po' più intimo, sì, lo sapevo. Anche, sì, anche. Ah, anche per WhatsApp? Sì. Secondo me, allora, con Facebook può avere senso, perché comunque ci gira di tutto su internet, su Facebook soprattutto, e quindi non sai mai chi puoi incontrare come persone. Però su WhatsApp, cioè, sono messaggi, non sono... Ok, magari puoi dare dei numeri a uno sconosciuto, però... In sostanza i tuoi ti controllano? Sì, sono controllata, cioè non è che mia mamma è una spia. Sì, se non gli mando un messaggio entro mezz'ora pensa che un gruppo di narcotrafficanti mi abbia rapito, quindi devo stare molto molto attenta. Queste sono interviste fatte da Beatrice Doria, prese dal video pubblicate sul sito del Secolo XIX. Avete capito qual è il termine del problema? Si vuole stabilire con una legge, con un regolamento, il fatto che inferiori di 16 anni non possono accedere ai social network. Mi viene a dire immediatamente, sì, ma quando ti iscrivi mica ti chiedono le impronte digitali o un documento. Tu puoi scrivere la data che vuoi, puoi dire che hai 90 anni, che ne hai 250, che ne hai 18, 21. Mi sembra sì, esiste il regolamento, esisterà la legge, faranno qualcosa contro il regolamento, ma qualcuno verrà mai a prendere a casa e arrestare un sub-sedicenne perché si è iscritto a un social network con una data diversa? Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Ricordo Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Trovi che sia proprio necessaria questa norma? Già esistono precedenti? Come reagiranno i grandi gestori dei social network? Qualcuno ieri ha detto sono molto preoccupati, ma preoccupati di che? Ma allora, sono preoccupati del fatto che ci si possa agganciare a questa norma per fare loro in qualche modo causa nel momento in cui succeda qualche cosa, perché è chiaro che questa è una norma che di per sé è inapplicabile, no? È chiaro che chiunque si può iscrivere ai social network dichiarando l'età che vuole, è anche chiaro che un social network non ha neanche gli strumenti giuridici per effettivamente verificare la mia età, insomma non è un poliziotto che mi può chiedere i documenti. È chiaro anche che perché al momento di strumenti concreti per accertare l'età di una persona, non saprei quale potrebbe essere. No, potrei ad esempio, in Italia noi tutti abbiamo in tasca la carta nazionale dei servizi, no, che posso interfacciare in maniera più o meno semplice con il mio computer, e su quella c'è scritto che sono certificato allo Stato italiano, però anche qui Facebook, ma Google, quelli che sono, non hanno il diritto di accedere a questi dati, perché sono dati con i quali noi comunichiamo con la pubblica amministrazione e solo con la pubblica amministrazione, quindi non è una cosa semplicissima, no? Anche perché francamente io non vedo perché necessariamente devo dare i miei dati veri a Facebook, ad esempio, no? C'è anche questo punto è stato sottolineato bene da una sentenza di una corte costituzionale. Cioè non sono obbligato a mettere le mie cose, tipo che mi chiedono 5 minuti cosa mangi la mattina, cosa beva la sera, quando vado a letto. Quindi è fondamentale, insomma, cioè, per una decisione ovviamente di una corte suprema tedesca, non italiana, però in questa sentenza la corte suprema tedesca ribadisce il diritto all'anonimato, cioè io mi posso iscrivere a Facebook con uno pseudonimo, con un nom de plume, come si diceva una volta, con un nickname, come si dice oggi, che non è necessariamente il mio nome. Finché io non commetto qualche genere di atto illecito, io ho tutto il diritto a dire ai social network, a comunicare ai social network semplicemente dei dati di pura invenzione. Non c'è niente di illegale in sé per sé questo. È chiaro che se poi questi dati vengono usati, cioè la mia identità finta viene utilizzata per commettere reati, allora in qualche modo dovrò essere perseguito. Ma di per sé io ho un diritto ad essere anonimo e questo è fondamentale. Allora, Andrea Rossetti ci fa capire, il professor Rossetti, che in realtà stiamo parlando di fuffa, stiamo parlando di qualcosa che non cambierà di una virgola i comportamenti dei ragazzi, salvo che mettere una nuova spina nel fianco a chi gestisce i social network per dire: ma un domani un genitore che si fa girare che magari il figlio è stato bullizzato o è stato in qualche maniera perseguitato in un social network, è a minorenne, c'è andato, dice: ah, vedete, sei iscritto e voi dovete controllare, come accade per il caso precedente di Vivi Down, in cui improvvisamente sembrava che il controllo di ciò che veniva messo su, a quel tempo era YouTube, mi sembra, doveva essere a carico delle persone che gestiscono YouTube. Oggi è esattamente più o meno lo stesso problema. Però io vorrei porre una domanda agli ascoltatori: madri, padri, genitori, come vi comportate? Avete figli di età inferiore ai 16 anni? Siete così attenti e tutelanti di questo suo spazio intermedio, non è lo spazio concreto della sua vita? Cosa accade quando un ragazzino vi chiede, me lo chiederà normalmente perché fa parte per lui come l'ossigeno che respira, come i vestiti che si deve mettere, come il cibo che gli date, di iscriversi a un social network? Ora, per fare questo invito sia chi ci ascolta sia il professor Andrea Rossetti, che poi trarrà delle acute osservazioni di tipo tecnico, la testimonianza di Giulia, che ho qui in studio. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Giulia, sentite dal tono mesto della madre, è la madre di una tredicenne? Sì, tredicenne. Si può dire il nome? Sì, Sofia. Sofia. Ecco. La piccola Sofia è una attiva frequentatrice di social network. Esatto. Dove va tua figlia? Dunque, lei utilizza WhatsApp e poi Instagram. Perché dice che Facebook è da vecchio. Facebook è da vecchio. Ecco, vedi già Andrea, già la prima quindi, lettura. Un inferiore di 16 anni considera Facebook roba da vecchi, quindi roba di chi stiamo parlando? Ecco, punto. E qualche volta Ask, però non particolarmente, perché sostiene che Ask invece è brutto o girano brutte cose. Spieghiamo Andrea cosa sia Ask, così le persone ascoltano, perché è qualcosa di un po' diverso. Ask è, diciamo, è quell'area di intercomunicazione, per fare un esempio, in cui fu scoperto il caso delle lolite romane, dei pariolini che andavano con le ragazzine, le andavano a razzolare dentro Ask. Sì, sì, è esattamente questo, è una sorta di Google Answer, di Yahoo Answer, cioè un posto dove si fanno domande e si ottengono le risposte. Quelle domande che vengono fatte sono un po' di tutti i generi, le richieste che vengono fatte sono un po' di tutti i generi. I server sono, se non ricordo male, in Russia, e quindi sono server che non possono essere in nessun modo toccati dalla legislazione e dai poliziotti. Quindi italiani. Può accadere di tutto dentro Ask? Sì, accade di tutto dentro Ask. Sì. Sei preoccupata, Giulia, tua figlia sia dentro Ask a 13 anni? No, lei non è dentro Ask. Lei... Però sa cosa sia? Assolutamente, gliel'ho chiesto, ma tu sei dentro Ask? No, assolutamente. Lei utilizza Instagram con profilo privato, quindi dice no, io do l'amicizia solo a chi conosco, perché vai. E tu puoi andare a vedere dentro il suo profilo? Ma io se fossi iscritta ad Instagram, cosa che lei mi ha vietato... Cioè la tredicenne ha detto mamma guai a te se ti iscrivi. Guai a te se ti iscrivi ad Instagram non, e mi chiedi l'amicizia o chiedi l'amicizia a qualcuno dei miei amici. Me lo ha vietato, come mi ha vietato comunque non controllo neanche i suoi messaggi WhatsApp. Perché? Perché non ho il non conosco il codice d'accesso. Quanti ne riceve di messaggi? Tu senti comunque l'avviso? Ma quando lo mette silenzioso perché deve studiare, quindi mi vuol far credere che non è su WhatsApp. Lo silenzia. Lo silenzia, altrimenti è un continuo. Non so, ad esempio, quando la notte lo spegne, la mattina lo accende, ha tipo 300 messaggi. Allora, una tredicenne mediamente può ricevere 300 messaggi su WhatsApp nell'arco di una notte. Questo Andrea ti fa riflettere. WhatsApp in realtà non è un social network, questa è la prima cosa, appunto, sì, siamo sì. Già al di là di social network. Per questo WhatsApp... noi parliamo di qualcosa che già è stato superato. Esatto. Oggi esistono sistemi di messaggistica che permettono di creare dei gruppi. Il gruppo su WhatsApp è l'esito più vicino. È un gruppo, può contenere un numero di persone, non so quanto sia il numero massimo. Un centinaio di persone. 100 persone. 100 persone. 100 Però sono 100 persone molto attive, che fra loro comunicano continuamente. Io sono il patrigno di un ragazzetto di 16 anni e esattamente nella situazione di Sofia, voglio dire, perché WhatsApp è diventato lo strumento con il quale loro si tengono in contatto, si scambiano informazioni, si scambiano i compiti, si scambiano gli appuntamenti. Oddio, lo fanno anche le carampane ultra cinquantenni, sì, o certo, lo fanno certo. Tutti, però si raccontano, magari sai, ho visto a quell'aperitivo quel simpatico giovanotto, certo, quasi sessantenne, però ancora in forma, cose del genere, ognuno si racconta le sue cose. Ognuno si racconta le sue cose. Io abito in una piccola città di provincia, Pavia, no? Io mi ricordo che da adolescente andavo in piazza a fare le chiacchiere. Ecco, loro in piazza non ci vanno più perché le chiacchiere le fanno attraverso WhatsApp. Questa è la cosa che dobbiamo tenere in mente. Insomma, la socialità di un ragazzetto adolescente è effettivamente mediata oggi come oggi da WhatsApp. È lo strumento col quale si tiene in contatto con i suoi amici, con le sue amiche, immagino anche con vari fidanzatini o fidanzate più o meno. Presunti tali. Però avvengono anche... Giulia, movimenti vessatori nei confronti delle persone, ne hai avuto testimonianza, te l'hanno raccontato, cioè i ragazzi li usano anche per tartassare i loro compagni cosiddetti secchioni o sfigati o perdenti, via dicendo. Sì, ho avuto racconti di episodi di bullismo comunque su WhatsApp. Io infatti chiedo sempre a mia figlia, di cui relativamente cerco di fidarmi, se comunque, a parte vabbè, le parolacce che sono il loro modo di parlare, vabbè, pazienza, cosa avviene comunque nelle loro conversazioni. E lei spesso mi dice no, ma se io vedo comunque qualcuno che si comporta male o esco dal gruppo o addirittura se qualcuno mi offende lo blocco. Il che vuol dire che lui non può più mandarti messaggi né, tu sei stata bloccata la tua figlia qualche sì, volta? Sì, sono stata bloccata la mia figlia spesso e volentieri quando lei non vuole che tu la disturbi, ti blocca su WhatsApp. Esatto, ma siccome qui siamo alla follia totale, della follia io faccio parte, a volte noi comunichiamo su WhatsApp perché mi rendo conto che lei è molto più spesa su WhatsApp che trovarla fisicamente. Esatto, è il loro modo di comunicare. Adesso daremo una notizia ai genitori, li farei ancora più rabbrividire. Io lo vedo che siamo stati fra i primi a scriverci a Telegram. Adesso ogni giorno decine di persone della mia agenda si scrivono a Telegram. Quindi c'è questa transumanza su Telegram che è molto più figo di WhatsApp. Puoi fare le chat segrete, tu puoi mandarti quello che vuoi e tutto si autodissolve nel giro di un minuto. Simonetta, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Sì. Io a me è venuto in mente che se questa dovesse diventare una legge, io sono contraria, perché penso che basta. Sì, ma la legge che fa ridere i polli, l'abbiamo già capito, è come legiferare su qualcosa che ormai non esiste più. Prego. Mi chiedevo se potesse diventare un'arma in causa di separazione con l'affidamento dei figli, quando c'è una legge ben specifica, quanto un genitore possa... Io se voglio spezzare le reni a mio marito in caso di separazione, dico: ha fatto iscrivere il figlio su Facebook, anche se è inferiore di 16 anni, e lo seguo. Così è questo che ho pensato. Ho pensato a questo, che possa diventare un'arma. Io sono molto contraria a questa cosa. Primo per l'arma e poi perché i figli vanno seguiti, non bisogna limitarli, bisogna solo stargli accanto. Questo è quello che penso. Sì, ma tutto anche nasce, secondo me, perché diventa un appetibile gadget di tipo giornalistico, anche noi ci stiamo dedicando questa mattina. La dedichiamo però non per strapparci le vesti, come ho visto scritto, sì, bisogna stare attenti alla realtà virtuale in cui entrano i figli. No, ormai i figli hanno dei luoghi di aggregazione e di relazione e di espansione della loro personalità e di esperienza in cui i genitori non possono più entrare. Una volta era la cameretta in cui si chiudeva una chiave, il genitore bussava, apri, apri, apri, o era il bagno nel caso di giovani adolescenti, apri, apri, apri, sento chiuso da ore. Oggi è un luogo in cui basta bloccare il genitore e il genitore non entra. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Da un certo punto di vista mi sembra giusto, da un altro punto di vista forse un po' meno. Perché? Giusto, sì, perché? Perché, giusto perché si possono proteggere i ragazzi comunque, perché su Facebook si sa, ci sono persone che hanno brutte intenzioni, da un altro punto di vista invece sarebbe un po' come limitare il modo di comunicare tra i ragazzi, perché ormai Facebook è uno dei mezzi più comuni. Questa cosa vale anche per WhatsApp, so che... WhatsApp no, cioè... WhatsApp non si tocca, no. Tutti della stessa idea. Tu quando ti sei iscritta l'hai detto a mamma e papà o hai fatto... Sì, mi hanno iscritto loro. Ti hanno iscritto loro. E adesso loro ti controllano, guardano quello che pubblichi? Sì, perché anche mio papà è su Facebook, mia mamma no, perché non è molto tecnologica però. Perché comunque sì, bisogna avere una certa responsabilità anche, e quindi un'autorizzazione dei genitori è giusta. Tu ti sei iscritta? 800 24 00 24, queste sono le interviste di Beatrice Doria del secolo XIX. I ragazzi che prendono un po' in giro quando uno gli fa queste domande sanno benissimo, sì, mio padre è su Facebook, ma sai cosa ci metto io a limitare l'accesso di mio padre a tutte le cose che voglio che lui non veda? Fa morire da ridere, perché usiamo regole per arginare il mondo concreto, come dire, costruiamo dighe con fango e tavole di legno, capito? Quando oggi si usano materiali di tutt'altro tipo, dire che basta una legge impedire a far sì che il padre possa sorvegliare il figlio su Facebook. Poi mi stanno scrivendo via SMS molte persone per dire: questa ragazza, alludendo alla piccola Sofia, figlia di Giulia, dice: questa madre come fa con questa figlia, dovrebbe trattarla come una dipendenza. No, non è un caso limite, è un caso banalmente quotidiano, sono tutte così, non cambia. Giulia, tua figlia rappresenta un unicum fra le sue coetanee? Ma io direi di no. A scuola va bene, studia. Sì, a scuola studia. E no, mi fa un po' sorridere l'idea di questi commenti, perché alla fine noi genitori, no, e i genitori sono i primi ad utilizzare questi social, come li vogliamo chiamare, perché vedo gente più che adulta che passa giornate intere su Facebook o anche su WhatsApp, quindi alla fine insomma mi viene un po' anche come fa una mamma a dire non usare Facebook quando la mamma gli suona ogni 30 secondi in tasca il telefono? A parte il fatto che vabbè, a mia figlia ripeto non interessa Facebook, perché lo sostiene che sia una roba un po' da vecchi. Insomma, c'ha ragione, è diventato da vecchi Facebook. Comunque so anche di genitori, sì, che appunto a differenza mia hanno un altro tipo di approccio, diciamo, verso il problema, chiamiamolo problema. Cosa fanno? Allora, vietano. Iscrivono a loro volta, ad esempio su Instagram, chiedono l'amicizia e verificano cosa il figlio che pubblica, gli fa una pernacchia pubblica, naturalmente, ma gli fa vedere quello che vuole. Esatto. E oppure comunque controllano l'ultimo accesso del figlio su WhatsApp, sì, che può essere tolto, quindi esatto. Figlio non... e altrimenti vabbè, partono le minacce. Ci sono quelli che fanno venire il coccolone, ma ti parlo di signori sessantenni, perché si accorgono che la loro compagna è andata su WhatsApp alle 3 di notte. Che succede? Chi l'avrà cercata? Fatto? Vabbè, è un altro modo. Senti, entra in gioco però uno strumento che si chiama trattativa sindacale. Perché le persone banalmente rozze dicono: ma togli il telefono alla figlia. Sì, sembra facile. Toglieresti mai tu di mano il telefono a tua figlia? No, io l'ho fatto raramente, lo faccio solo nel momento in cui vedo che il telefono la distrae dallo studio. Però non lo faccio. Ecco, tendenzialmente la sera, quando so che il giorno dopo devo andare a scuola, le dico: vai a dormire, spegni telefoni, tablet, robe varie, e si dorme, e chiusa la questione. Però io so che tanti altri genitori, rispetto a me, alla prima disobbedienza dei figli, tolgono il cellulare un giorno, una settimana, oppure concedono il cellulare ad orari. E quindi riescono a gestire questa situazione di crisi sindacale? Ma allora, in parte, perché poi dai racconti che spesso mi fa anche Sofia ottengono l'effetto opposto, e quindi anzi vanno a complicare pure un rapporto che già di per sé è abbastanza amico, complicato. Ha fatto oggi una cosa che vi dico: WhatsApp si segue anche sul computer, c'è un web WhatsApp, quindi può stare davanti al computer e fingere di fare chissà cosa, in realtà sta ugualmente WhatsAppando. Sentiamo qualche genitore. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, qual è la situazione a casa sua? Ma la situazione che sostanzialmente è difficile anche avere un atteggiamento, come si dice, propositivo. Anche ritirare il cellulare non è che cambia la vita. Non è che cambia la vita, anzi, anche perché io, avendo due figlie, lo ritiro uno a una, l'altra utilizza il cellulare dell'altra. Ma poi c'è sempre un amico, un'amica che ti presta il cellulare, entri con quello dell'amico. Quello è l'ultimo dei problemi. Le figlie hanno 13 e 15 anni, leggo sulla scheda. Sì, 13 e 15 anni. Beh, ormai la quindicenne è andata, ormai sarà in un altro pianeta, penso, no? Tutte e due sono già in un altro pianeta, sostanzialmente, anche se cerca di vederle sempre come bambine. Come le sue bambine che giocano con le bambole. È molto difficile. Anche il fatto di poter lasciare a loro, da giovani adulte, il libero arbitrio di utilizzare un mezzo. Sì, ma quello del... altre scelte, scusi Massimiliano, questo il mando, che io ormai è un problema che non mi pongo più avendo figli grandi e altri tipi di problema, ma ci sono altre scelte? C'è un piano B possibile, secondo lei? Noi lo tentiamo, il piano B. Il problema è che, come diceva la sua collega, come diceva prima, scusi, c'è una certa difficoltà, anche perché ci va incontro a quelle che sono azioni di ritorsione che poi servono a niente. Sostanzialmente le mie figlie costantemente hanno la furbizia di tenere il telefono in silenzioso, però io lo considero uno smartphone, quindi telefono e anche altro. Loro lo considerano invece come altro. Quando io le chiamavo protesi emozionali tutti ridevano. Andrea Rossetti, ti ricordi? Ricordo, sì, professore, mi ricordo. All'Università Milano Bicocca, insegna informatica giuridica. Controllando, appunto, qui parlando dell'esperienza personale, controllando il traffico del mio figliastro, io mi accorgo che lui il telefono lo usa quasi mai. Il telefono non è un oggetto per telefonare, lui non mi telefona mai, ad esempio. Perché? Perché per le nuove generazioni la funzione telefono è veramente una funzione accessoria rispetto alle altre cose. Ma infatti è una funzione accessoria di WhatsApp, lo può usare anche per telefonare, ma chi lo usa? Esatto, non lo usa veramente più nessuno. Io credo che bisogna cercare di esercitare un certo genere di controllo, appunto contrattualizzando in qualche modo l'uso. Ad esempio, secondo me non è pienamente corretto che loro ci escludano o ci blocchino dalle chat. Ma cosa puoi fare, Andrea? Quale strumento hai? Ma no, lo spieghi, no, lo si spiega. No, è chiaro che io non posso avere un controllo puntuale. Ma tu hai in mano un figlio maschio, già ormai un po' più cosciente, una ragazzina di 13 anni... È poi difficile fare trattative. No, lo so, perché non dico mica che sia facile, perché non voglio dare sia chiaro a nessuno su questa cosa qui. È chiaro che però quello che dobbiamo fargli capire è che noi li controlliamo per aiutarli a crescere, e come prima li aiutavamo per strada, per andare all'oratorio piuttosto che andare al cinema, adesso li controlliamo aiutandoli a usare questi strumenti, perché anche lì oggettivamente si possono fare dei brutti incontri, no? Questo è anche questo un dato di fatto, e quindi noi dobbiamo assistere i nostri adolescenti in maniera da fargli avere consapevolezza lo strumento che stanno usando. L'antica battaglia di una richiesta disperata di fiducia generazionale oggi si sposta su un altro piano. Ci sono margini di trattativa, Giulia, secondo te? Sì, ci sono margini trattativi. Ma senza ricorrere, diciamo, a tortura fisica? Sì, sì, comunque io ho spiegato a mia figlia, stai attenta a chi, vabbè, Facebook, ripeto, lei non ce l'ha, comunque a chi ti contatta su questi social, comunque ho fatto tutta la tiritera, il discorsetto che ogni genitore in teoria dovrebbe fare, e lei comunque mi ha rassicurato, mi ha detto no, ma guarda che io su Instagram ad esempio concedo l'amicizia solo a chi conosco, sto attenta, cerca di fidarti, e quindi io medio, cerco sempre di mediare. Poi quando lei mi blocca spesso lo fa perché io magari ho litigato con lei, e per lei è un po' come una ritorsione, chiude questa chiave in camera della nostra generazione. Esatto, non si chiude più a chiave, mi blocca, dopo mi sblocca, cioè è una cosa che dura poco. Come quando litigano i fidanzatini, ti cancello e poi lo rimettono. Esatto, ma lo fanno anche gli adulti, ripeto. Anche gli adulti, sì, dico, ormai sono tutti bambini. Massimiliano, tu hai mai guardato nella cronologia del computer dei tuoi figli per vedere dove vanno? Mai. Non hai il coraggio, temi quello potresti vedere? Ma reputo... Sì, mi blocca sostanzialmente una... cioè io non vorrei che lo facessero altri nei miei confronti, non posso tollerarlo nei confronti di un'altra persona. Reputo che la privacy sia un ambito molto personale. Non... Sono belle parole, ti fanno onore. Giulia, tu hai mai avuto la tentazione di guardare nelle cronologie, nei luoghi dove va tua figlia, per capire dove è andata, dove non è andata? No, anche perché lei comunque cancella tutto. No, il computer non lo utilizza tanto, solo per far ricerche o vedere i film. Spesso viene da me e mi chiede che film posso vedere, e quindi oggi è un oggetto nemmeno abbandonato da solo. Lo smartphone ormai è come se fosse una protesi quasi incorporata. Una volta il computer veniva i 10 minuti che il computer ha lasciato abbandonato, uno andava lì e osservava, smanettava. Oggi il telefono se lo porta anche in bagno, quindi è un po' difficile, salvo tortura fisica appunto, sostanze soporifere e cose del genere, entrarci in maniera non autorizzata. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Barbara, buongiorno. 800 24 00 24, come vi comportate? Qual è la trattativa con i vostri figli nel gestire lo spazio dei social network? Barbara. Beh, insomma, io ho dei figli ormai, io ho 53 anni e ho dei figli già grandi. Quanto cioè, hanno i figli? 22, 24. Vabbè, sono fatti a quest'età sono fatti loro però. Vivono fuori casa, allora. Studiano fuori casa, però e sono molto contenta, quella mamma Giulia mi piace molto, è molto saggia, mamma di Sofia. Della piccola Sofia, sì. Della piccola Sofia, perché io ho questa strana idea che in questo modo, sui social, questi bambini, ragazzini, ragazzi, si siano ripresi gli spazi dei cortili. Io sono figlia di una mamma ultra ottantenne e noi non venivamo tampinati dai nostri genitori di domande su chi avevo visto, con chi avevo parlato, di cosa avevamo parlato. Ai nostri genitori bastava guardarci, osservarci un po'. L'osservazione dei genitori sullo stato d'animo dei figli insegna molto di più, secondo me, che non andare a scuriosare sui messaggi che loro si scambiano. Il colpo d'occhio, aspetta un attimo, fermi una. Giulia, ci dicevamo prima che un colpo d'occhio di tua madre ti sgamava subito quando eri ragazzina. Esatto. Tutto quello che avevi fatto. Sì, sì, sì. Ti sentivi assolutamente messa a raggi X. Esatto, esatto. Era proprio un... Non gli potevi nascondere nulla tua madre. No. Invece no. Tua figlia chissà le cose che ti può nascondere. Ma non so quante cose mi può nascondere mia figlia, però ha ragione anche la signora. Si sono un po' ripresi gli spazi che non hanno più, perché i cortili non esistono più. Sì, ma il cortile è sempre un portiere, una vecchia, qualcuno no, che ma gli spazi di aggregazione per i ragazzi sono molto limitati, e quello è un luogo tutto per sé, dove sì, magari litigano, però si confidano con le amiche. Spesso mia figlia mi dice, ah no, adesso ho studiato e devo comunque andare a consolare X perché ha litigato con il fidanzato. Sì, su WhatsApp. Beh, però almeno sta a casa, non esce, dai. Ma no, ma insomma, io credo che io cerco di fare del mio meglio, logico. Sempre 13 anni l'amica da consolare, sì. Sì. Beh, so, in quanto è una vita spezzata, mi rendo conto. In quanto persona umana e genitore farò i miei errori. Come Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, si occupa Paolo di sicurezza informatica. Cosa deve aggiungere a questa nostra dissertazione? Dunque, io vedo due rischi, uno è tecnologico e uno è sociale. Il rischio tecnologico è quello per cui, insomma, mio figlio tanti anni fa, quando c'era ancora internet su linea commutata, era caduto nella truffa del dialer, quindi cadeva la connessione e in automatico veniva fatta partire una connessione telefonica, adesso la Moldavia. Con i numeri, quelli euro. Grandi pagatori, come si chiamano? Gli 144? Sì, numerazione speciale. No, questo era proprio una telefonata in Moldavia, erano 1800 euro. Che sì, ma mi ricordo il periodo che accadeva questa roba. Ok, allora secondo me. Non è che ci capitava mai per caso, uno doveva andare a smanettare un po' in zone. No, mio figlio andava sui siti porno. È chiaro, è quello. Però io alla sua età avevo un amico che aveva il padre aveva la collezione di Playboy. E noi andavamo in soffitta a vedere la collezione di Playboy, quindi fa parte del gioco. Allora, secondo mia moglie, avendone io gli strumenti, avrei potuto barra dovuto mettere un controllo informatico a suo figlio. No, controllare, spiare tutto quello che mio figlio faceva, cioè tecnicamente era fattibile. Sì, è facilissimo per lei. Gli piace uno sniffer che registra tutto quello che il figlio fa. Mi sono sempre rifiutato perché c'è una definizione di privacy che è, magari aulica, però dico lo stesso, è il diritto dell'individuo a negoziare le proprie relazioni sociali sulla base del controllo dell'informazione. Cioè, che lei è molto saggio, devo dire, è molto saggio, è giusto. Mi occupo di queste cose, sì, faccio sto mestiere qui. No, è giusto. Quindi, lo che dice lei è molto giusto, però è chiaro, è come uno che c'ha paura ad avere le corna. E si trova lì, capito? Da una parte vorrebbe la conferma, così può attuare la sua vendetta. D'altra parte non osa andare oltre quella porta dove ci dovrebbe essere la chiave. E come il suo paragone, come spessissimo, assolutamente calzante. È esattamente quello. Allora, il problema qual è? Il problema è che se tu vuoi che tuo figlio cresca, non puoi impedirgli di vivere nel suo contesto e farlo vivere in una campana di vetro, perché se vivessi in una campana di vetro, vero, nella maggiore età avrebbe tutte le infezioni del mondo, e un orecchione a 30 anni ha delle conseguenze che a 6 anni non ha, per fare un esempio banale. Sì. Poi bisogna imparare a cadere, quindi l'esempio di mia figlia, che ha postato delle cose di cui poi si è pentita perché l'hanno fatta litigare con delle amiche, ma c'è un apprendistato verso la vita adulta a cui i genitori non possono reagire impedendolo. I figli devono sbagliare, devono fare queste cose. Quindi l'unica difesa che io vedo è quella di fare i genitori, cioè dire le cose, cercare di farsi capire e poi incrociare le dita. Un altro consiglio saggio ce lo dà Stefania rispetto a quello che dicevo prima. Ricordo, noi la chiave la conosciamo per i film della Sandrelli, Sboccati di Brass, ma è un romanzo giapponese di Tanizaki, dove c'è questo rapporto lacerante fra un uomo e una donna, e lei su questo diario scrive di tutto, cose fantasiose, cose vere. Tu le guarda, le leggi, un po' s'attizza, un po' paura, e rimane questa zona dell'incertezza in cui uno ha sempre paura di buttare l'occhio. Stefania, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ha stabilito delle regole, è riuscita ad arrivare alla fine della trattativa? C'è l'accordo? Noi diciamo che abbiamo sempre in accordo con mio marito. Abbiamo sempre posto un limite, nel senso, bene, tu avrai il cellulare, avrai lo smartphone, però ci sono dei limiti, ci sono delle regole che in casa vanno seguite. Allora, come una volta noi c'era il telefono di casa, no, l'unico telefono di famiglia che con lucchetto, c'era, si ricorda, col lucchetto, mettendo un lucchetto. C'era il suo angolino o il suo tavolino e stava lì. Allora noi abbiamo detto, così come noi genitori, quando arriviamo a casa, tiriamo fuori i telefoni dalle tasche, le mettiamo lì dove c'è il telefono fisso di casa, anche tu arrivi a casa e metti il telefono lì. Il telefono non va in camera, il telefono di notte non va in camera e neanche durante il giorno. Beh, è durissima questa regola. Come si fa a non avere il telefono in camera di notte? Ah no, assolutamente, il telefono... Comunque ha seguito la linea dura, però la trattativa, lei ha seguito la linea dura, ha imposto, diciamo, il telefono non entra in camera la notte, quindi la notte quella sta lì, poverina, ansimando con paura di rimanere fuori dal circo degli amici, tutti gli amici chattano, si mandano messaggi e lei è chiusa in camera. Andrea Rossetti, in conclusione. Ma in conclusione sì, la privacy è una cosa importante, ma teniamo conto che abbiamo parlato di ragazzi, appunto, e quindi io credo che il nostro sostegno come adulti sia fondamentale per loro per crescere, quindi un minimo di controllo io credo che vada esercitato, controllo non nascosto, nel senso che per loro a loro deve essere non usando che noi, qualsiasi mezzo, controllo palese. Ed essendo chiaro che noi teniamo un occhio su di loro, appunto, che noi li aiutiamo, li stiamo aiutando in questo mondo sempre più complicato che è adesso anche un pezzo digitale nel quale dobbiamo necessariamente vivere. Quindi mi sembra la soluzione, alla fine la trattativa sarà dura, dare comunque sempre l'idea che i genitori ci sono, senza avere l'illusione però che potranno essere sempre, ovunque, comunque nei luoghi frequentati dal figlio, perché questi luoghi non sempre sono delimitati da pareti, è una stanza che non ha più pareti. Grazie Giulia, grazie Andrea, alla prossima. Alla prossima.